giornale radio del Friuli Venezia Giulia. La terra trema di nuovo in Friuli. Nella notte una scossa di magnitudo 3.6, l'epicentro a 3 chilometri da Raveo, dove negli ultimi mesi si sono moltiplicati piccoli eventi sismici. Cade da un'altezza di 4 metri mentre cerca di evadere dal CPR di Gradisca calandosi dal tetto della struttura. Grave, un immigrato tunisino di 20 anni è ricoverato a Udine. Trasferito al centro Grandi Ustionati di Padova, il marittimo croato ferito da un ritorno di fiamma nel porto di Monfalcone. Migliorano invece le condizioni di Maurizio Crisciotti, rimasto intossicato nella sua casa di Forni di Sopra dal monossido di carbonio che ha ucciso la moglie. Calano di oltre il 14% le assunzioni nell'industria, ma crescono nel settore dei servizi e soprattutto nel turismo. Il settore edile tiene ancora i dati di Unioncamere. Centinaia di supplenti della scuola, sia insegnanti che personale ATA, senza stipendio da mesi. A metà mese i soldi dovrebbero arrivare, ma i sindacati lamentano la gestione del problema. Stenta a decollare il processo telematico. Le nuove procedure previste dal decreto ministeriale sono state di fatto sospese anche a Regione per malfunzionamento del sistema informatico. Sarà riaperta entro mezzanotte del 14 gennaio la Galleria Sandrinelli di Trieste, lo ha comunicato a Cegas APS alle prese con un intervento sulla rete fognaria. Aumenta anche la tazzina del caffè al bar a Pordenone, già in molti bar costa 10 centesimi in più. Gli esercenti convinti che non calerà la richiesta. Le 12.31, ancora buongiorno da Alessandra Zigaina e Andrei Marusic. Con una magnitudo di 3.6, il terremoto che questa notte ha scosso una parte del Friuli è stato il secondo evento più forte registrato negli ultimi mesi nell'area dove si sono verificati e si stanno verificando centinaia di piccoli terremoti. A Raveo, in Carnia, il terremoto di magnitudo 3.6 generatosi poco distante a 4 km di profondità l'hanno sentito e come. Erano le 2.42 di notte quando è arrivata la prima scossa. Più residenti ci dicono di essersi svegliati e faticando ad addormentarsi, anche un po' per lo spavento, di aver sentito anche il successivo evento sismico a poco più di 2 ore di distanza. Un grosso boato, affermano le persone intervistate, tra loro un'anziana che dice di aver avuto paura soprattutto perché era da sola in casa. È una signora di mezz'età che, ricordando quello del 76, dice di non sentirsi mai troppo tranquilla in questi casi. Al Centro di Ricerche Sismologiche di Udine, che gestisce oltre 150 sensori in tutto il Triveneto, ci mostrano una mappa a cerchi concentrici. L'evento, che di solito si inizia ad avvertire a partire da intensità 3 della scala Richter, è stato percepito solamente nelle vicinanze dell'epicentro. Decisamente più lieve la scossa di quella del marzo 2024 a Socchieve, che fu avvertita fino a Trieste, in Veneto e in Trentino. Allora il sismografo si fermò a 4.6. La scossa di stanotte rientra nel quadro della normale sismicità dell'area. Nell'ultimo anno, nella stessa zona, in un raggio di 30 km, se ne sono registrati 383 di terremoti, di magnitudo piccola o piccolissima, 39 nell'ultimo mese. Allerta inviata dopo un minuto dalla scossa alla Protezione Civile, come da protocollo, ma nessuna segnalazione di danni a persone o cose è pervenuta, né al 112 né ai Vigili del Fuoco. Dopo la scossa principale sono seguiti 3 cosiddetti aftershock, eventi sismici secondari, magnitudo 1.6, 1.7 e 2.7. Matteo Piccozzi, direttore del Centro di Ricerche Sismologiche di Udine. Ci aspettiamo sicuramente delle repliche con magnitudo progressivamente decrescente. C'è da tenere però sempre a mente che è un'area caratterizzata da un'alta pericolosità sismica, che in passato, sappiamo da fonti storiche, fu colpita nel 1794 da un terremoto di magnitudo 6. Raveo, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia. E la scorsa notte, verso mezzanotte e mezza, c'è stato un tentativo d'evasione dal CPR di Gradisca di Sonzo, durante il quale un tunisino di 19 anni è rimasto ferito in modo grave, cadendo da un'altezza di 4 metri. L'uomo sarebbe scivolato dal tetto mentre stava cercando di saltare oltre il muro di cinta. È stato ricoverato all'ospedale di Udine con numerose fratture alle gambe. I medici hanno escluso lesioni spinali. Non è in pericolo di vita. Nel tentativo di fuga è stato coinvolto un altro tunisino che ha desistito. colpito. I due erano ospiti della struttura da alcuni giorni, un episodio simile si è verificato anche la notte di Capodanno, una decina di uomini è riuscita a salire sul tetto del centro, l'emergenza si è poi conclusa dopo le lunghe trattative con le forze dell'ordine. Secondo Giovanni Sammito, segretario del SIUL provinciale di Gorizia, il sindacato di polizia, nella struttura non è presente personale specificatamente qualificato. Il personale in forza al CPR viene sottratto ai propri compiti istituzionali di controllo del territorio, denuncia il sindacato, che chiede la sospensione dell'attività del centro per ripristinare in modo strutturale l'edificio e la riorganizzazione dell'intero sistema. Il marittimo croato di 66 anni, ferito dal ritorno di fiamma di una bombola a bordo della nave Mar Bellows, ormeggiata a Monfalcone, è stato trasferito nella terapia intensiva per grandi ustionati dell'ospedale di Padova. Le sue condizioni sono piuttosto gravi, avendo riportato ustioni di secondo e terzo grado al viso, al collo e alle mani. I sanitari si riservano la prognosi. Ed è stato trasferito dall'ospedale di Catinara a quello di Pordenone a Maurizio Chisciotti, 73 anni, rimasto intossicato dal monossido di carbonio nella sua casa di montagna a Forni di Sopra nella notte tra Natale e Santo Stefano. L'intossicazione era costata la vita alla moglie Patrizia Pontani, conseguenze meno drammatiche per la loro figlia Laura Chisciotti, trasferita da giorni all'ospedale fiorentino di Careggi. Le condizioni di Chisciotti sono leggermente migliorate e i sanitari hanno disposto il trasferimento nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Pordenone, città dove l'uomo vive. Centinaia di lavoratori che da mesi non percepiscono lo stipendio sono i precari della scuola che coprono le cosiddette supplenze brevi ma che nei fatti spesso durano a lungo. Il ministero a metà mese dovrebbe saldare ma i sindacati lamentano la gestione del problema. La campanella è tornata a suonare puntuale all'indomani dell'Epifania, puntuali. Sono tornati in classe gli studenti, i docenti, tutto il personale che la scuola fa funzionare. Eppure parte di questi lavoratori non percepisce lo stipendio da mesi, persino da settembre. C'è addirittura chi lo scorso dicembre 2024 ha percepito lo stipendio della mensilità di giugno. Succede nella scuola pubblica, docenti e personale ATA che coprono supplenze definite brevi e saltuarie, che però di breve hanno ben poco. Spesso sono persone che sostituiscono maternità o malattie lunghe. In Friuli Venezia Giulia si parla di centinaia di lavoratori, ma un numero preciso, spiega la CGL Scuola, è difficile da calcolare. Un tempo era la scuola a pagare direttamente i precari, da qualche anno invece sono subentrate le piattaforme ministeriali e il meccanismo è diventato complesso. I fondi sono sempre della scuola, ma il pagamento parte da Roma, che prima deve vedere se la scuola ha i soldi o meno in cassa. Ora si attende la cosiddetta emissione speciale. Il Ministero del Tesoro ha promesso verrà fatta il 17 gennaio, a saldo di tutte le rate autorizzate dalle scuole da inizio anno. Resta necessario modificare a monte il metodo di pagamento, altrimenti la situazione si ripeterà. Nelle segreterie intanto sono continue le richieste d'aiuto, racconta Giuseppe Mancaniello, segretario della CGL di Pordenone, che racconta di persone che chiedono addirittura dei prestiti per poter arrivare a fine mese. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Sono ancora i servizi a gennaio 2025 a guidare la domanda di lavoro in Friuli Venezia Giulia. Le aziende del settore prevedono di assumere 6.340 lavoratori, cioè un più 5% su base annua. I servizi alle imprese programmano 2.530 assunzioni in più, cioè un più 3,7. Le imprese turistiche ne programmano nel mese più 100 rispetto a gennaio 2024. Nonostante il dato positivo dei servizi, il saldo complessivo delle previsioni del mese e nel trimestre resta negativo rispetto al 2024, pesando in particolare il perdurante momento complesso per l'industria, che prevede il 14% in meno di assunzioni rispetto all'anno scorso. Le rilevazioni arrivano dal report mensile Excelsior Union Camere, elaborate per il Friuli Venezia Giulia dal Centro Studi della Camera di Commercio di Pordenone Udine, che registra come i contratti di assunzione nel complesso dei comparti produttivi nel mese calano del 3%, mentre quelli previsti nel trimestre gennaio-marzo del 4,2%. Tengono le assunzioni nel comparto delle costruzioni con un più 1,2%. e sono difficili da reperire sul mercato nel gruppo delle professioni intellettuali e scientifiche, gli analisti e gli specialisti della progettazione di applicazioni. Tra le professioni tecniche si segnalano i tecnici della distribuzione commerciale e i tecnici della salute. Tra gli operai specializzati sono difficili da reperire anche gli addetti alle costruzioni e gli operai addetti a macchine automatiche e semiautomatiche per le lavorazioni metalliche. Con riferimento ai livelli di istruzione, il 14,4% delle ricerche di personale è rivolto a laureati, il 27,3% a diplomati, il 39% a chi è in possesso di una qualifica o diploma professionale e circa il 2% riguarda i diplomati ITS Academy. Per una quota pari al 21% le imprese prevedono di assumere personale immigrato e per una quota pari al 28% le assunzioni interesseranno giovani con meno di 30 anni. Il processo telematico introdotto da un decreto ministeriale per ora non funziona neanche in Friuli Venezia Giulia. L'introduzione del processo telematico stenta e le difficoltà si ripercuotono anche nei tribunali del Friuli Venezia Giulia. A Udine il presidente Paolo Cordero ha di fatto sospeso, unendosi a decisioni analoghe di altri tribunali italiani. Il provvedimento è stato pubblicato sul sito del tribunale. L'applicativo interno, chiamato app, non funziona a dovere. Il decreto del presidente Cordero parla di malfunzionamento e incompletezza del sistema informatico. Fino a fine marzo a Udine potranno essere depositati atti e documenti anche in forma analogica, in deroga a quanto previsto dal decreto ministeriale che ha di fatto introdotto l'obbligo di modalità telematica. Da quanto abbiamo appreso da fonte qualificata, analoga decisione è stata presa a Gorizia e un decreto del Presidente sarà pubblicato a breve anche dal Tribunale di Trieste. Della farraginosità del sistema si lamentano giudici e avvocati. Il membro della giunta dell'ANM, l'Associazione Nazionale Magistrati, Nicola Russo, dice che attualmente il sistema digitale costringe a perdere molto tempo per un deposito che in precedenza richiedeva poco. Pochi secondi. Mobilitate anche le camere penali, gli organismi di rappresentanza degli avvocati penalisti. La presidente della Camera Penale Triestina, Sabina Della Putta, denuncia difficoltà nel deposito di atti, anche di quelli appena di decadenza, atti che hanno scadenze ben definite, la cui mancata presentazione compromette a tutti gli effetti il diritto di difesa. Nessun problema invece per il processo civile, introdotto ormai da anni al netto di qualche fisiologico intoppo, secondo quanto affermato la vicepresidente della Camera Civile di Udine, Giovanni Ortis. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Dovrebbe essere riaperta al traffico privato entro le 24 di martedì 14 gennaio la Galleria Sandrinelli di Trieste, interessata da attività di sondaggio e riqualificazione della rete idrica che scorre sotto il manto stradale. La chiusura degli scavi è prevista entro domenica e l'asfaltatura è in programma per lunedì. Durante l'intervento è stata messa in luce anche la condotta fognaria, che ha evidenziato un avanzato stato di ammaloramento che sarà sanato da Acegas APS AMGA. La tazzina di caffè al bar sta aumentando, siamo andati a vedere quali sono i prezzi a Pordenone. Devo pagare un caffè? Sì, sono 1,40, grazie. Con il nuovo anno il caffè a Pordenone costa 10 centesimi in più, 1,40 in molti bar, non tutti ancora, qualcuno resiste a 1,30, ma la tendenza è quella del ritocco all'insù, visti gli aumenti dei costi delle materie prime. A quanto ce l'avete voi il caffè? 1,30. Avete intenzione di aggiustare verso l'alto? Sì, abbiamo intenzione, proprio perché è aumentato tutto, caffè, zucchero, e quindi ci toccherà, ma per il momento lo teniamo a 1,30. Come reagirà la clientela secondo voi a questo piccolo ritocco in su? Chiederanno spiegazioni, però non ci rinunciano al caffè. Secondo i dati del Centro Studi della Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi, ad aprile 2024 per un chilo di caffè verde occorrevano 4,44 euro, con un incremento del 21,4% rispetto ad aprile 2023. La FIPE pordenonese non ha ancora dato indicazioni agli associati, ma la direzione è quella dell'aumento. Enrico Ceolin è vicepresidente FIPE Ascom Pordenone. La tendenza per quest'anno sarà quello di aumentarlo, anche in vista degli aumenti che ce ne sono stati fatti del caffè. L'ultimo è stato fatto a fine di quest'anno e ci saranno anche quest'anno degli ulteriori aumenti causa costi doganali, costi di trasporto e tutto quello che ci viene dietro. Ci sarà un aumento, quindi probabilmente ci sarà un aumento di un po' tutti i bar, si aggirerà verso l'euro 40 o l'euro 50, e in alcuni locali è già stato applicato. Il caffè non è un bene primario, ma per la gente è visto come un bene primario, quindi anche i 10 centesimi penso che la gente potrà affrontarli. Pordenone, Natascia Gargano, TGR Friuli Venezia Giulia. Secondo un report governativo che riguarda il tema degli affitti brevi, il Friuli Venezia Giulia e l'Umbria hanno la maglia nera in fatto di regolarità. In queste due regioni, tre locazioni su cinque non rispettano quanto previsto dalle normative. Le regioni più virtuose sono la Basilicata con il 94% di strutture regolari e la Valle d'Aosta con il 90%. Il meteo ora, il cielo è sereno, poco nuvoloso sulla regione. Queste le temperature registrate alle 11. A Trieste, Pordenone 7 gradi, Udine 9, Gorizia 8, Tolmezzo 5, Forni di Sopra 3, Piancavallo 1, Tarvisio 0, Sappada meno 3, Monte Lussari meno 7, Monte Zoncolan meno 6, Grado e Lignano 8. E ci attende un fine settimana soleggiato e freddo. Ce lo racconta nel dettaglio il previsore dell'ARPA, Giuseppe Visalli. Dopo il passaggio della perturbazione nel corso della giornata di ieri e del debole fronte freddo nel corso della notte, delle prime ore del mattino odierno, sta affluendo aria secca ma anche piuttosto fredda da nord, che ci terrà compagnia per tutto il fine settimana. Infatti nella giornata odierna avremo ancora cielo poco nuvoloso per nubi stratificate con buona moderata sulla costa e sulle zone orientali, anche sostenuta a Trieste. Temperature massime tra 7 e 10 gradi sia sulla pianura che sulla costa. Nel fine settimana ci attendono due giornate molto belle con cielo sereno al più poco nuvoloso. Soffierà comunque ancora buona moderata sulla costa e sulle zone orientali, anche sostenuta o localmente forte poi verso il pomeriggio e soprattutto la sera di domenica a Trieste. Soffierà anche vento da nord o nord-est moderato o sostenuto in quota sulla zona montana. Temperature in ulteriore calo con minime sotto zero sulla pianura, soprattutto nel corso della notte di domenica, con gelate diffuse. Temperature massime tra 7 e 10 gradi ovunque nel corso della giornata di sabato, in calo tra i 5 e i 7 gradi nella giornata di domenica. Attualmente sembra che anche l'inizio della prossima settimana sarà caratterizzato dalla bora, che soffierà sostenuta o anche localmente forte a Trieste nella mattinata, nel pomeriggio di lunedì, in attenuazione martedì, ma comunque sarà ancora presente. Probabilmente nella seconda parte della settimana diverrà via via più debole fino a cessare del tutto. Uno studio coordinato dall'unità di oncogenetica e oncogenomica funzionale del CRO di Aviano e condotto in collaborazione con diversi centri oncologici e l'università italiane ha permesso di fare luce sulle caratteristiche biologiche del sarcoma epitelioide ed individuare nuove possibili opportunità terapeutiche per questo tumore aggressivo. La ricerca ha meritato la pubblicazione sull'ultimo numero di Modern Pathology, l'autorevole rivista dell'Accademia di Patologia Americana e Canadese, nonché la più quotata nel settore della patologia dei tumori. Il sarcoma epitelioide è un tumore raro che insorge negli strati profondi delle arti e delle parti centrali del corpo e colpisce generalmente i giovani. Il territorio del Carso punta sulla qualità dei prodotti e dell'ospitalità per attrarre un turismo lento ed esperienziale e per sostenere un'agricoltura sostenibile che dia lavoro ai giovani. Dei progetti di sviluppo dell'area abbiamo parlato questa mattina. Buongiorno Regione, sentiamo un estratto. Un altopiano roccioso difficile da coltivare per la pietra di cui è composto, ma che ha una natura unica e un elevato grado di biodiversità. Il Carso, da Muggia a Savogna di Sonso, lavora da anni alla promozione dell'agricoltura, puntando sulla qualità e sulla sostenibilità dei suoi prodotti e allo sviluppo del turismo. A sostenere e finanziare progetti volti a questi obiettivi è il gruppo di azione locale Gal Carso, che avrà ora a disposizione risorse per più di 2 milioni di euro da investire sul territorio. Il presidente David Pizziga. Sono quattro linee di bandi. Più o meno la coordinazione è questa: aumentare la qualità della produttività e aumentare un po' la quantità del prodotto. Il secondo è aumentare l'ospitalità e aumentare il numero dei posti letto. Il terzo sarebbe quello di mettere a posto alcuni sentieri ciclo pedonali nel nostro Carso, nella nostra natura. Il terzo è quello di migliorare l'offerta del wellness, che sarebbe dire migliorare sia in piccoli centri di benessere sia fino a costruzione di qualche piscina in più. Il GAL vuole così permettere ai giovani di restare sul territorio e accogliere nuovi visitatori per un turismo che non è di massa. Stiamo lavorando per selezionare il turista che è capace di accettare la nostra altissima qualità, quindi che possa spendere da noi 5-6 giorni, una settimana di tempo, rimettersi in forma, vivere in questo questo ambiente, che è uno degli ambienti più intonsi dal punto di vista naturalistico della nostra Europa. Tra gli obiettivi del GAL c'è anche la creazione di un GECT del Carso, un gruppo europeo di cooperazione territoriale come quello del Goriziano. Un GECT potrebbe finalmente riunire questa terra e poter dare quella promozione totale insieme, comune, collaborando con la parte slovena. Ma in più sarebbe utile perché il GECT potrebbe essere l'ente che va a prendere i soldi in Europa. Trieste, Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. Finisce qui questa edizione del giornale radio regionale, che è stata redatta e condotta in studio da Alessandra Zigaina e Andrei Marusic, in regia per la parte tecnica Caterina Cabrelli, ha collaborato in redazione Valentina Veneruso. A tutti voi grazie per averci seguito e un buon proseguimento d'ascolto. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.